Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo questa sera della crisi dell'informazione, un problema che ci riguarda tutti da vicino e che domina proprio i giornali, ma non soltanto, perché la crisi dell'informazione riguarda certo i mezzi di comunicazione tradizionali come i giornali di carta, ma anche tanti altri canali e tante altre piattaforme che non sembrano assicurare all'informazione una salute migliore di quanto avesse goduto in passato. E il fenomeno naturalmente è esplosivo, un fenomeno che riguarda tutto il mondo e che riguarda ciascuno di noi, e su questo fenomeno riflette un esperto della materia, Vittorio Meloni, che è un professionista della comunicazione, attualmente direttore delle relazioni esterne del gruppo Intesa San Paolo, e che ha scritto Il crepuscolo dei media, informazione, tecnologia e mercato, pubblicato dalla Terza, 138 pagine, 13 euro. Meloni inizia qui con una constatazione drastica, ma ormai condivisa da tutti, e scrive che il mondo della comunicazione e dell'informazione, così come lo conosciamo, si sta dissolvendo sotto i nostri occhi. Una notizia addirittura che forse, aggiungo io, non fa neanche più scalpore. C'è un certo diffuso fatalismo in attesa di una possibile rivincita o risposta nei confronti dell'avvento del digitale, che ha scombussolato tutti gli equilibri e sta modificando radicalmente gli assetti proprietari dei grandi gruppi dell'informazione e non soltanto a livello planetario. E il libro parte con questa spietata fotografia della crisi delle industrie editoriali, crisi di vendita, crisi di pubblicità, che si accompagna a una crisi più generale dell'informazione, perché anche quella digitale, come accennavo prima, non riesce a rimpiazzare in termini di vendite e di ricavi quello che si è perduto con la carta. Naturalmente le nuove tecnologie e le nuove generazioni apportano un cambiamento, una novità sostanziale in questo settore, e anche la crisi economica ha contribuito ad allontanare molta gente dai giornali. Allora sentiamo dall'autore, in queste condizioni, che prospettive si possono aprire alla informazione. Buonasera Vittorio Meloni. Buonasera. Vittorio Meloni, dicevo prima che il libro parte con una descrizione della crisi, una crisi di utenza, di lettori e una crisi di pubblicità. E quindi crolla un universo sul quale ci siamo retti per molti anni, anzi per molti secoli. Sì, non c'è dubbio che siamo di fronte a un cambiamento radicale. C'è una tecnologia che sta sostituendo un'altra tecnologia con la quale conviviamo da almeno 3 secoli, almeno per quello che riguarda la carta stampata, che poi naturalmente ci sono tecnologie più recenti come la radio e la televisione, che però sono anche loro, diciamo così, in particolare la televisione dopo la carta stampata, minacciate da un cambiamento che le investe in pieno e che proviene dal nuovo mondo digitale. Una sfida che, appunto, come lei ricordava prima, riguarda anche non soltanto i giornali ma anche la televisione, che mi pare lei definisca o faccia capire che è accerchiata, e la radio, che però è uno strumento forse più in difesa, che si difende meglio. Sì, la radio, che non dobbiamo dimenticare, è l'unico mezzo non ancora, diciamo, trasformato dal digitale. Dei progetti sperimentali sono in corso nel nord Europa, arriveranno da noi, ma insomma sostanzialmente parliamo di un mezzo ancora analogico, rimane un mezzo ancora molto forte, però è di fatto uscito, salvo l'universo Rai, Radio 24 appunto, e poche altre realtà, è sostanzialmente uscito dal mondo dell'informazione. I grandi mezzi che fanno informazione subiscono tutti la concorrenza ormai molto forte di tutte le nuove piattaforme digitali. Ecco, ma parliamo di questo allora, del digitale, delle trasformazioni del digitale. La grande speranza era che il digitale ampliasse molto gli spazi per l'informazione, per la comunicazione. Questo in realtà è successo, però mi pare che sia crollato il modello sia dell'informazione che anche il modello di business sul quale hanno vissuto per decenni le grandi aziende editoriali in tutto il mondo. Allora, questo digitale può prendere una strada più costruttiva, a suo parere? Ma diciamo che è crollato o è in difficoltà, forse non è ancora crollato, il modello di business basato sull'online, cioè su un accesso gratuito a portali di informazione che raccoglievano grandi flussi di traffico e quindi anche buoni ricavi pubblicitari. Questa fase si sta sostanzialmente esaurendo, perché quel tipo di online non cresce più e perché subisce a sua volta la concorrenza di un altro digitale, che è quello delle piattaforme mobili, smartphone per primi. Quindi è lì che bisogna guardare per vedere come concepire nuovi prodotti nativi, cosiddetti nativi editoriali, perché c'è una modalità di fruizione dell'informazione e della notizia completamente diversa. In questo registriamo la difficoltà dell'editoria tradizionale a concepire un prodotto diverso, difficoltà più pronunciata nei paesi a lettura debole come l'Italia, che hanno magari anche una struttura di economia digitale ancora arretrata. Manca il wifi, e questo rende più difficile l'accesso a mercati nuovi di consumo anche di informazione di tipo digitale. Ed è altrettanto difficile trovare dei modelli di ricavi attraverso la pubblicità, perché la pubblicità che va sui social e sugli smartphone trova molte difficoltà. Ma ne troverà sempre di più, perché non dobbiamo dimenticare che sugli smartphone e sulle piattaforme mobili la pubblicità vuol dire anche consumo di banda larga, che qualcuno sta pagando e non vuole vederla assorbita da un pop-up o da un'intrusione pubblicitaria di terzi. In più c'è un'intera generazione che ormai è cresciuta con una certa ostilità verso la pubblicità in quanto tale. Ricordo nel libro che solo l'anno scorso sono state scaricate 750 milioni di copie di Adblock Plus, che è un software che appunto ferma la pubblicità sulle piattaforme online e digitali. E anche questo sta spingendo grandi marchi dell'informazione come New York Times, come Financial Times, per citare le più famose, a vendere un prodotto non più basato sul ricavo pubblicitario, a vendere un prodotto esclusivo sulle proprie piattaforme e le piattaforme altrui. Questo probabilmente è un possibile futuro, adesso nessuno sa con certezza se funzionerà, ma queste grandi testate ci stanno provando. Infatti lei parla di alcuni casi di successo, per esempio cita il caso di un glorioso quotidiano inglese, l'Independent, che smise qualche paio d'anni fa di uscire nella versione cartacea, ma che ha ritrovato una sua nuova funzione, un suo nuovo ruolo. Sì, assolutamente, e lo fa per l'appunto in un mercato molto digitalizzato come quello britannico, molto più digitalizzato del nostro. Ora, noi non sappiamo se l'Independent, diventato tutto online e digitale, sia uguale dal punto di vista editoriale all'Independent che conosciamo, già grande giornale, diciamo, alla ricerca di un giornalismo molto preciso, molto anche orientato politicamente. Però non c'è dubbio che finalmente quell'Independent che ha perso per 20 anni consecutivi sul proprio bilancio, adesso riesce a vedere la luce fuori dal tunnel e a fare i primi profitti e a trovare un nuovo posizionamento. E come cambia il giornalismo? Lei ne parla nel libro, in questa situazione. Sì, io non pretendo di dare lezioni di giornalismo, ovviamente, che è una professione che secondo me non è in discussione e durerà, perché il prodotto informazione è uno dei più importanti tra quelli che circolano sulla rete in tutte le forme. Osservo che quel giornalismo da cui proveniamo ha bisogno di essere rivisto, ripensato, soprattutto in funzione del fatto che non avrà più un contenitore unico che chiamiamo giornale col quale manifestarsi. Non ci sarà più la gerarchia ordinata di notizie e fatti, perché quelle generazioni che usavano quel tipo di informazione, diciamo, ormai non sono più maggioranza, e quindi bisogna andare su prodotti legati alla tipologia di notizie e seguire i lettori, che sono lettori un po' voraci e molto eclettici, tutti ormai, o per la più parte, su piattaforme digitali o simili, come i nostri ragazzi, ma non solo, perché ormai riguardano la gran parte della popolazione. Quindi bisogna ripensare la forma notizia più che la forma giornale, abbandonando l'idea che la pubblica opinione, le pubbliche opinioni si raccoglieranno intorno a grandi testate, si raccoglieranno forse intorno a grandi brand e non per una gerarchia di notizie predefinita, ma per la qualità delle informazioni anche singole che questi brand saranno in grado di distribuire. Ma secondo lei la gente oggi sa che gran parte delle informazioni che riceve sui social in realtà sono frutto degli algoritmi? No, secondo me la gente sa che diciamo circolano informazioni di qualche utilità, perché queste piattaforme, non solo quelle social, le mettono a disposizione nelle famose reading list, e ovviamente che a loro volta si abbeverano dal mondo dell'informazione tradizionale. Però chiaramente per la gente quello non è il giornale, è solo un luogo dove vengono assemblate notizie di vario interesse, che possono anche formare una dieta mediatica di una certa qualità se usate con attenzione, ma chiaramente non sono pensate per dare una visione del mondo come accadeva, diciamo, con il giornale tradizionale e, se vogliamo, anche con il telegiornale tradizionale. Sono fatte per avere una serie di informazioni puntuali che poi io posso approfondire oppure no, che magari leggo molto rapidamente. D'altra parte, il successo di molti siti giornalistici di nuovo tipo viene anche da quello, no? Condensare in poche parole una notizia, dare i tratti essenziali e poi mettere a disposizione una testimonianza diretta, un video o qualcosa del genere. Quindi un prodotto giornalisticamente molto diverso dalla notizia costruita, strutturata, verificata che poteva dare un grande giornale nazionale. Infatti lei sottolinea un rischio molto attuale, e cioè quello che i media, la cito, vanno semplicemente al traino dei social. Ma sì, lo vediamo, nel senso che purtroppo in questa, nel tentativo di tenere la presa su un proprio pubblico e di allargarla con le piattaforme, in particolare online, i giornali, soprattutto quelli italiani, si sono dati alla costruzione di portali ibridi, dove c'è dentro di tutto, c'è l'informazione mainstream e poi ci sono le famose gallery, ci sono le curiosità, le cose bizzarre, che sono tipicamente la merce dei social, almeno di un certo tipo di social, non di tutti. E quindi alla fine loro, giornali, invece che, diciamo così, valorizzare il contenuto esclusivo di una notizia, praticamente vanno all'acquisto di cose curiose che vengono dal mondo dei social per incrementare il traffico. Così facendo però sviliscono di fatto, o almeno in parte sviliscono, la notizia principale, che viene messa praticamente sullo stesso piano. Questo è un problema per i giornali, perché tra l'altro, non ricevendo attraverso questo meccanismo nuovi lettori, ma soprattutto molti curiosi e navigatori distratti, non costruiscono un rapporto di fidelizzazione con il loro mercato. Grazie a Vittorio Meloni, autore del Crepuscolo dei media. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Abbiamo accennato con Meloni di algoritmi, ma cosa sono questi benedetti algoritmi e come funzionano? Risponde un sociologo francese, Dominique Cardon, che ha scritto Che cosa sognano gli algoritmi, le nostre vite al tempo dei big data, è pubblicato da Mondadori Università, 90 pagine, 10 euro, ed è tradotto da Chetro De Carolis. L'algoritmo in realtà è una serie di istruzioni, così la definisce l'autore, che permette o no di ottenere un risultato a partire appunto dai big data, e aggiunge l'autore, organizza gerarchicamente l'informazione, sempre l'algoritmo, indovina ciò che ci interessa, seleziona i beni che preferiamo e si sforza di sostituirci in numerosi compiti. Siamo noi, conclude, a fabbricare questi calcolatori, ma in cambio loro ci costruiscono. Insomma, sono dei captatori digitali, anche questa è una definizione dell'autore, che rendono il mondo un in tutto e per tutto misurabile. E scrive infatti, essi, gli algoritmi, orientano decisioni, dispongono processi automatici e giustificano scelte politiche, ma raramente ci interroghiamo sulla maniera in cui sono stati prodotti. Gli algoritmi, dice Cardon, sognano un loro mondo, un mondo che dobbiamo conoscere per governarlo, magari per evitare che si realizzi. E qui nel libro saremo introdotti alle varie famiglie di calcolo digitale, 4 per la precisione, per poi valutare l'impatto di queste famiglie, di questi algoritmi, impatto rispetto al quale, conclude l'autore, dobbiamo essere meno ingenui e più consapevoli se non vogliamo accettare che sia proprio un algoritmo o una serie di algoritmi a indicare l'unica strada possibile a ciascuno di noi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi parlo adesso di un libro molto interessante che ho trovato fra i più interessanti di questa stagione. Tra l'altro è un libro che ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti, dove ha suscitato un grande dibattito. Si intitola Elegia americana, l'autore G.D. Vaines, è pubblicato da Garzanti, 256 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Roberto Merlini. L'autore è il rappresentante di due degli stati più appartati degli Stati Uniti, l'Ohio, dove è nato, e il Kentucky, dove ha vissuto a lungo. Sono le aree del cosiddetto Rust Belt, la cintura della ruggine, quella dove i lavoratori bianchi che hanno perso il lavoro che avevano nelle miniere, nelle grandi fabbriche e con il lavoro ogni speranza, e che erano tradizionalmente democratici, hanno in larga misura votato per il presidente Trump, assicurandogli la vittoria. E questo libro un po' è un'autobiografia di questo personaggio, di questo ragazzo che vediamo crescere, un po' reportage sul campo per capire un'America della quale gli stessi americani, soprattutto i liberal e i progressisti, parlano o si occupano troppo poco, intimamente disprezzando quel pezzo di America, salvo poi accorgersi che quegli americani lì fanno vincere Trump. E Vance qui si limita a raccontare, come dicevo, la propria vita, che si svolge in un ambiente familiare tipico nella sua difficoltà, nasce praticamente senza padre, addirittura dovrà cambiare il cognome a secondo dei compagni della madre, la famiglia è molto povera, la mamma ha frequenti occasionali rapporti ed è dominata da uno smodato uso di sostanze. Insomma, ci sono tutte le premesse perché il giovane GD cresca come la gran parte dei suoi coetanei, smarrito, senza futuro se non la dipendenza dalle droghe, la criminalità e la prigione. Ma Vance ha due nonni, e soprattutto la nonna, meravigliosi, che gli danno la forza morale per reagire. Il ragazzo capisce di dover studiare, riesce a entrare in una prestigiosa università, Yale, e da lì inizia una carriera che lo ha portato a diventare una figura di spicco a Silicon Valley. E nel libro troviamo appunto questa storia, e con essa la cronaca di un'America che sprofonda, ma anche la testimonianza che, nonostante tutto, il sogno americano, quello in cui Vance continua a credere, funziona ancora, perché ci spiega l'autore, che non nasconde le sue simpatie conservatrici, può funzionare se non si cade nella trappola dell'assistenzialismo pubblico, dalla quale poi è difficilissimo uscire. Joan Didion ci porta invece a conoscere un'altra comunità statunitense. L'autrice è una scrittrice e giornalista americana molto popolare, e il libro che ha scritto si intitola Miami, 264 pagine, 20 euro, Mondadori, tradotto da Teresa Martini. E qui troviamo la comunità cubana, quella che domina la personalità e la storia di questa grande città della Florida. Una città che è molto decaduta rispetto agli anni nei quali era una città ricca, brillante, mondana, e rappresentava una cerniera tra l'America opulenta e i Caraibi. Dicevo che il libro di Vance ci aiuta a capire il fenomeno Trump. È un Trump che gigioneggia da un comizio elettorale. Troviamo nel libro di un sociologo, Manuel Anselmi, che è dedicato appunto al fenomeno di cui il presidente attuale americano è una delle più fragorose espressioni, cioè il populismo. E populismo è il titolo del libro, Teorie e problemi, è pubblicato da Mondadori, Università, 100 pagine, 9 euro. Lo studioso qui affronta le varie interpretazioni del populismo per concludere con un tentativo di dare una definizione minima di questo fenomeno, per il quale, secondo l'autore, si devono manifestare i seguenti tre elementi: innanzitutto che ci sia una comunità popolo omogenea, interclassista, che si percepisce come detentrice assoluta della sovranità popolare, una comunità popolo che esprime un atteggiamento anti-establishment e alternativa alle elite preesistenti. Secondo fattore, un leader carismatico in connessione diretta con la comunità popolo, e infine uno stile discorsivo, argomentativo e comunicativo sempre manicheo, dove il noi è coincidente con la comunità popolo e il loro con tutto ciò che è esterno a essa. Lo stile discorsivo è teso a promuovere una polarizzazione politica, insomma fattori che possiamo ritrovare facilmente anche nella vecchia Europa e nella vecchia Italia. Uno dei temi al quale ho accennato, che ha influito sullo scoraggiamento della classe operaia americana e sul suo voto a Trump, è il timore dell'impatto che le nuove tecnologie avranno sul lavoro. È vero che il progresso cancellerà milioni e milioni di posti di lavoro che non potranno poi essere assolutamente rimpiazzati? A questa domanda cerca di rispondere un protagonista della rivoluzione in corso, perché il fondatore di un'azienda di software, anch'egli assieme con Valley, si chiama Martin Ford, e ha scritto Il futuro senza lavoro, accelerazione tecnologica e macchine intelligenti, come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo. Saggiatore, 340 pagine, 24 euro, tradotto da Matteo Vegetti. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di Miami, allora vi segnalo un libro di Kate DiCamillo, che è una popolarissima scrittrice per ragazzi americani, originaria proprio della Florida, che si intitola Little Miss Florida, tradotto da Laura Bortoluzzi per il Castoro, 202 pagine, 13,50 euro, in cui troviamo tre ragazzine in concorso per il titolo appunto di Miss, che Raim vuole conquistare a tutti i costi per riconquistare il papà alla famiglia. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola